Madonna. Questo ci mette il fuggibile che neanche qui. Adesso mi tocca mettere un nuovo grande. E in più perché io non so perché stava esplodendo un condensatore. Adesso non mi ricordo. cosa è capitata agli altri. Come la sua storia, andate anche di quello che è stato, a 200 poi sono morite, però capitava con gli altri, andare a 200. C'è una della zecca, e di lì ancora. Il problema è che quasi sempre, per colpa della follia di uno, si piangono i tanti. In questo caso, in particolare, la stupidità di molte persone. Ma mi sembra vecchio anche le persone serie, purtroppo, che vogliono fare tutte le bere, sono francesi. Secondo che bambini che sono tenuti a casa sono tutti saltellanti uno con l'altro, e disgraziatamente le tocca qualcosa bambini. E ne avremo almeno una trentina con 70% famiglie infettate, e allora veramente se le ma non ci pensano, non so se posso ancora parlare di ignoranza oppure di cattiva volontà. C'è gente che non ci impegna, gente ignorante, che secondo me questo ignorante deve fare certe cose, perché se no avrebbe fatto ciò che gli dicevano, per evitare anche per gli altri, non solo per lui, anche per gli altri. Perché se continua ad andare avanti questa cosa non la manteniamo più. Ma stanno dicendo anche, non mi fate illusioni, perché anche col caldo questa cosa lì, non è che arriva il caldo e per via tutto. Questa roba mi sa che veramente non si fa una cosa seria. Finisce per spostarsi fino a versate. E allora sì, lo senti un po', perché economico ma anche difficile, importante. Tutto di quando vengono, però. Una volta che è andata non te la dà più nessuno. Guarda, io ti stavo in casa, aspettare, io pensavo a arrivare a una certa età, tranquillo, stando a pensione, sarei venuto la tranquillità della campagna, tutte quelle cose qua. Invece, siamo in piena pandemia, quello di fondo. Tipo 1200-1400, no? Tanta gente che non mi offende. Gianfra, se ti può rincuorare, io ho sentito che il caldo ammazza i bambini e i virus. E praticamente in estate ce lo ti puoi immaginare a Stintino, tutta la gente che è accalcata, tra l'altro turisti da fuori che vengono qua, immaginate cosa potrebbe succedere, un patatrano. No, qua a me non ci vengono, la gente non si può, non ci vengono, si vedono a luglio, non si vedono agosto, è proprio questo periodo non sarà più di distanza, c'è gente che sta facendo aprile, maggio, giugno, tu pensi che in due mesi questa cosa sparisce, non ci conteremo, quindi è così. Dobbiamo, l'hanno già detto, anche l'organizzazione mondiale della sanità, non vi vedete col caldo, perché non è detto che anzi non è tutto detto. Guarda Ebola, così, quella del caldo, il virus lo stesso, ma non se ne va Ebola. Casino, Agno. Chissà da dove è partita questa cosa. Prima era quando noi italiani l'abbiamo chiusa qua in Europa, adesso il numero uno è passato qua a Germania, quindi va a sapere. Certo è che queste abitudini asiatiche di poca igiene e di regole non condivise sta sempre di più creando problemi, tutto lì. Se pensi poi sui paesi di cui sappiamo abbastanza niente, tipo paesi africani dove ci sono migliaia di cinesi, dei paesi dell'Asia meno evoluti, o l'India non fa parliamo di questione climatica, fa paura. Insomma, il quadro non è molto ottimistico, a vederlo bene. Sappiamo che cosa gira in questo paese, i malati possibili immaginati. Io mi ricordo mio cognato, mi è andato una volta a fare una gita a quelle di una città, un viaggio da quelle parti lì, e ci ha preso una malattia rosa tropicale, non riuscivano a capirci un capo, ma stava per lasciarci le pecche. Poi alla fine sono riusciti a debellare la mano. Intanto questa malattia rosa non la conosceva. Magari qua, però noi, guarda, noi siamo stati saggi perché abbiamo iniziato da subito a fare i tamponi a moltissime persone, quindi un pochino siamo salvati, un pochino salvati. Ma tu pensa agli Stati Uniti che hanno dato, perché in pronto soccorso agli ospedali, però i tamponi non servono a niente, per altre cose non si affettava niente. Dobbiamo vedere quello che succede anche lì. Uno già dato, se ti dico quello che questa è una guerra. Siamo in guerra. Sì, ma poi devono essere, coalizzati tutti i paesi del mondo, perché se un paese riesce a debellare con l'altro, quando andiamo avanti la storia, poi rimarti, che non finisce mai. Purtroppo l'essere umano è così. Sarà contenta lì se ne porta via un bel po' di vecchi vecchietti e così via. Non lì si lo portano giù. Perché non si porti via anche loro? Ma sono le categorie a rischio, sono gli anziani, gente che ha malattie croniche, tipo diabete, eccetera, eccetera, gente che lo trova debole, tipo dopo operazione, dopo qualsiasi cosa, e sono bloccati a crescere le operazioni. Ha giocato in tempo a farlo operare. Moriremo tutti. La voce dell'ottimismo! Vai, mi taccio. Ciao signori, sono tornato appena adesso da Rotamona Produttore, c'era pieno di gente, anche il bar, alla faccia del coronavirus. Io mi sono pigliato un caffè e mi sono preso il tavolino più lontano, proprio nell'angolino del reietto, in modo da non avere contatti con la gente infetta. Detto ciò, devo cucinare e ci sentiamo molto dopo. Ciao! Ciao, ciao Marco, ma la sola io ho qualche fidanzato. Una cosa fidanzata, è troppo impegnativo già, non ho voglia. Anch'io sono a rischio già. Io ho quella malattia cronica, la mandronia cronica, e anch'io sono a rischio. Quella non è una malattia, quella è un modo di vivere. Io ho mio figlio che commette, che dice fai questo e dopo lo faccio, non ne faccio. Come me abbia di te. Sei messo lontano, ma almeno da lì potevi fare la scena, no? Portavi un pochettino di smalto o cosa del genere, se lo mettevi nel naso e iniziavi un po' negli occhi, giusto per fare modello emo, no? A vedere cosa succedeva. No, te l'immagini se arrivava il cameriere con il caffè e cominciava e lui se l'era andata lontano per non prendersi in mano, era la del cameriere. Per l'occasione Marco mi sono vestito di nero, veramente, ho gli occhiali, neri, e avrei stato con l'occhio attento perché sta arrivando. Se c'è tutta la serie delle maschere antigas, Marco, non hanno pureggiano, si è preparato per le guerre chimiche. E infatti lo hanno aspettato, non è chimica ma è batteriologica, o meglio, biologica, non è soltanto una cosa. Una rama di tutti. Vabbè, ma quando metti quelle maschere che non hanno paura di un sito, non so, vanno bene lo stesso. Sì, infatti non capisco. Siccome quanto adesso ero da una spesa, facendo finta di niente, proprio col fatto letto, sarebbe stato bello passare a prendere un po' di strano. È entrato al momento un po' di quegli omini, polizze gialle, ma non quelli che si vedono in piedi dove sono andato, proprio quelli dei film, no? Cioè, per esempio, stanno senza tutta gialla, le bombole dietro, i calzari, e poi gli altri dietro armati anche, di fucile, di metalli, insomma, e immagini la scena. Ma questi poi si affollano di attacco degli altri. Io vado, ma ne così un po' vicino a casa, c'è poca gente. Niente. Andiamo a vedere perché poi è difficile che nel pubblico, cioè questo sono pericolosi, perché sono ambiente chiuso, assolutamente complesso, sono stato molto. E poi davanti sta la cosa. Lo so. Cerchiamo di viverci la giornata, se mi pince mi spari per qui. Potremmo dire ai nostri nipoti che ci arriviamo. Io ho vissuto durante la grande epidemia. Siamo rimasti in 10 su tutto il paese, abbiamo dovuto rigenerare tutti gli italiani, ci hanno usato come animali da riproduzione. Ci prenderanno come Terminator. Appunto, il contrario di Terminator. Quindi dentro un laboratorio sempre facendo, dato che non ce ne sono, mostrandosi sempre sul posto, a dove andare. Ma adesso guardate la televisione, non mi compaiono a me queste foto, non so come fai a tu. A volte faccio anche tutti i film. Mi contattano questi qui, se vuoi fare lavori di notte, con la profonda, questo e quell'altro. Queste immagini pubblicitarie, capito? Perché c'hai la metà attraverso un testo, giusto per rimanere un altro momento. A me sicuro che avanti ieri mi è capitato senza aver caricato niente in particolare, che sono andato, cioè ero da solo, stavo provando alcune cose, sono stata la luce, sono fatto il corrente, l'ho riavviato e automaticamente si avviava Explorer e mi buttava dentro questo sito, sempre uno, e non era neanche un sito pericoloso, però sempre quando non riuscivo ad andare da altre parti ogni sotto il secondo appariva a terra. Ho dovuto buttarci dentro un programma speciale, professionale, scarno, che era per l'anno, ma stavo pensando su... Ehi, se stavo così, capito? Tipo anche quando tu vai, per dire, ci sono questi giochini, come sarai da grande, oppure quante persone ti vogliono bene, quante ti vogliono male, vai a cliccarci sopra, anche se non riesci più a uscire, devi spegnere completamente il telefono per uscire, perché se no non esci. Infatti, che ti mettono tante cose. Esatto. Poi la gente non sa che tutto quello che fa è tracciato, già da qui da leggere dal suo mare, stanno tutto quello che fa. Tutto. Ma poi se non ti configuri Google, perché Google quando lui ha detto che sarà tra poco perché sta aggiornato Google per l'utilizzo di Google. Tu clicchi accetto, se un cliente non è certo sarebbe così, no? Poi prenditi la briga di andare sul tuo account a guardarti cronologia delle esplorazioni, guardi che c'è, vedi che c'è la cronologia di inizio con tutto l'elenco di tutti i siti dove sei andato, le pagine che hai visto, gli interessi che hai, una cosa allucinante. Ma io la cronologia ogni volta la cancello, la tolgo. Quando vado a vedere le cose poi cancello tutto. Vero, sul computer la cancelli, ma non sul server dove c'è la camera. Questi se li mette sul ferro, hai capito? Va a stare ferro. Da me nella cronologia vedi io porno, pornotube, eccetera eccetera. E mega senso. Donne, uomini, animali e tutto qua. Tutto ciò che respiri e che faccio sesso. Oi. A quando bollire l'acqua, oi, mamma mia. Io non mi accontento di vedere solo ma. Lo so. Guarda, un concorrente di un grande fratello aveva detto, dice, a me piace più guardare che fare, e io penso di essere così, un guardone. Ecco perché me la San Francesco. C'è tutta la confienza la nostra. Vai Gianfranco. No, ho detto, attento che non ti diamo la puzza. O ancora peggio della puzza, che non ti invitino e magari c'è certa vantaggio e ti fa di tutto di più. Un attimo che vado in bagno. Beh, nei giochi a tre non sa mai come va a finire. Magari lui ti concede la moglie e poi te la trovi dietro. Quello è. Poi c'è il rischio che possa piacermi, è pericoloso. Poi viene a sapere Paoletto e dice, ma guarda che stronzo, ha fatto tante storie perché le ho detto una cosa e poi va anche a fare. Ehi, questa storia di San Francesco è nata perché andavo a modulare, quando non avevo antenna qui a casa, andavo con la barra mobile a modulare a San Francesco perché era una posizione buona, arrivavo a Porto Torres, abbastanza tranquillo come posto, a parte qualche greffetta di frazzatori che quando vedeva qualsiasi antenna mi vedesse sulla macchina sale imbrunire un po' buio. Figurati quanto ne capiscono, anche quella 1,60 m, diciamo, mica faccio gli sbirri, mica faccio gli sbirri. Antenna uguale sbirri, bella mentalità comunque. E poi mi ha detto, vedevo che si infrattavano in posti assurdi queste macchine, mi ha detto che Gianni erano le coppiette. No, io andavo in zone molto più isolate, molto più isolate, non in mezzo alla città. E lì c'è in mezzo alla città, non va bene, no? Vediamo se sentiamo Nicola, io sento sì. Ma che fa perché va così? Nicola sì, un po' lì. Può darsi che sia uscito con la famiglia oggi. A Plattamona c'era abbastanza gente, c'era tutto il vialone parcheggiato, quello che va alla rotonda. Gente nei bar, anche a ben meno di un metro. Io stavo un metro e mezzo dietro, no? Lo stesso a Porto Torres, la passeggiata lungo Balai, no? Lì, anche Scoglio Lungo, tutta una mega passeggiata, gente ai bar. Finché al primo caso che arriva di virus, vedrai come ce la faranno addosso. E tu ti ho troppo sotto, così almeno siamo sistemati noi a riparare. Io ce l'ho stamane, invece sto facendo prove, prove radio di copertura. E niente, posso confermare che si può rilevare la radio su tutto, no? Per la portata. Fino sta un po' parlando la gente, però ti vado a dire una cosa, ecco, adesso non si ricorda. Ho notato una cosa molto preoccupante, che Ernesto praticamente, a parte che mi hanno anche smontato tutta la tettoia, quindi mi sa che questo è un attimo. Ah, tu stai dicendo ristorante, ma ho visto anche nel vialone hanno buttato giù o i vandali, non so chi, quel legno per non scavalcare, già capito, là. C'è il muro e poi quel legno per non entrare, tutto rotto e tutto in disuso. O tu alludi al bar per caso? Al bar, non ricordi che al bar c'era quella mega tettoia in legno questo che ha fatto con Savoni di quelli no, guarda, tutti abbandonati, eccetera, non c'è più niente. Ma i tavolini, cioè ci sono, ma sai, non è che tavolina, e dopo ti metti a tavolino, tutto spazio, ma tutto sono comprato. Anche quello è vero. Ah, quando io intendo bar, non intendo, io non sono andato lì e non ho manco guardato lì. Sono andato a dar da mangiare a quella cagnolina che c'è lì, a ridosso del parcheggio, a pagamento. E sono andato in quel bar in fondo dove c'è la marina, come lo chiama? In fondo, dai. E poi pigli la strada per Porto Torres, litoranea. Gente ce n'era. Poi a Porto Torres ho visto solo una signora con la mascherina chirurgica verde. Poi non si sa se fosse un'immunodepressa oppure una molto, come si dice, molto cauta. Sarebbe saggio se una persona altro che cauta. Ma poi sì, veramente sia. Sì. Poi riguardo che sta con la macchina, quella Opel grigia di cacca del 2000 peraltro sta diventando il ritratto di Dorian Gray, sta diventando orribile fuori e un po' anche dentro perché l'ha maltratto. Credo di essere l'unico con l'antenna ormai che gira a zona Platamona, Porto Torres, infatti tutti, cioè quando vedo l'antenna tutti guardano i passanti, sembra che dicano streganza, streganza, come quel film quando le donne avevano la coda, non so se un film trash. Alte, che antenna era, te lo ricordi, in marca modello? Guarda, io della marca della Dynamon, della stessa marca, ho quella lunga, perché c'è la 770, con quello portale, lunga un metro di circa, e quella lì è la 70, la 77 che è molto più piccola, è quella che c'ha l'attacco. Entrambi hanno la tappa a piede, no? Che faccio la capotta. Però veramente, guarda, una leggenda macchina. Guarda, non è, posso capire, non è 8, anche 2, dai. Valori così alti iniziano, cioè su una parata amatoriale, inizia a essere cattucci, cioè senza passaggi lunghi. La frega, e mie non fa niente perché sono collaudati quasi per una passata, però insomma la vostra spettatura per non c'è di me, grazie, non faccio, non viene fatto, non viene fatto, non viene fatto, non viene fatto. vediamo se è rientrato Gianni che mi controllo l'acqua, intanto torno subito. Zaffra, se la vuoi te la do io una da un metro e mezzo che ce l'ho lì ferma, non la uso. È tipo Diamond, con quelle con le stazionarie mista. No, ma io ne ho tantissime antenne, no? Guarda, io ho la... sempre ce la diamo, quella da un metro circa, che va benissimo, da 1,2 metro la banda. E poi la sono fatta fabbricare, se potete mi dire, infatti questa che ho fabbricato è tutta un'altra cosa, capito? E niente, quindi le antenne, guarda, ne ho una buttata di polo, quello che utilizzo di 80 metri, che ancora non l'ho ripiazzato, ma quindi, tanto c'è l'altro, perché si sta insomma, come antenne la salute, sono anche troppe, oramai, che sono tutti usate. Ma io ce l'avevo e vendeva di brutto, c'ero in campagna che non la uso. Ma l'abbiamo usata una volta con Claudio, mi l'abbiamo usata, dilla Claudio a vedere se batte quell'antenna. Lo so, ma adesso c'è un Natalino, almeno per lo meno nel mio caso era la proprio finendo di mettere una cosa da distanza, quindi l'ho provato anche a Cagliari, stavo semplicemente contatto chiarissimo, ovviamente sempre con il digitale, perché la loro non si presta a fare queste cose. Ciao Marco, ben sentito. Ciao Natali, ma sei entrato adesso? Prima ho sentito Gianni e Gianfranco. Ti volevo dire Gianfranco, io spesso e volentieri, in fin dei conti, la migliore né troppo corta né troppo lunga, io sto usando per ricevere, anche oggi l'ho portata, una Diamond NR770H. Quella che ha la spiralina al centro d'acciaio, no, non quella che ha quel cosino in plastica, la bobina con il giunto in plastica, è un NR770H originale, quindi bellina, riceve bene, stazionarie poche, i punti MR vanno un bijou, poi ho una SG7009, però copia clone Diamond, non originale. Quella 3x5 ottavi in UHF, barrasone, molto molto pesante, impegnativa. E poi un'infinità di antenne, c'è una finta CR8009 che funziona solo in V e in U e in uccia stazionarie. Poi un'infinità di antennini più o meno magnetici, più o meno grandi, chi ha la base da 8, chi ce l'ha da 5, chi ce l'ha da 3, dai 14 cm ai 50, tutte le misure, 50, 40, una 20 in arrivo, oppure quelle proprio 14 cm con la spiralina e il magnetino, che praticamente è una moneta da 1 euro circa. Che hanno quell'orribile cavo RG174, no? Nonostante siano solo 3 metri, praticamente già l'antenna guadagna zero, se è un quarto d'onda va in perdita. Capo. Beh sì, ho detto così, ma così. Ovviamente, come cavo, sono anche poco, fantastico. È un po' di giro la testa, però... già 3-4 mesi, una testa per la testa, soprattutto per non dare noia, perché questi piatti rimasti negli uggi sono per elettronici e col digitale bisogna stare attenti. Questa è una volta con Vittorio ha fatto un po' di e lei ha fermato la macchina. Ogni tanto cambio per sfruttare un po' l'uno un po' l'altro, alla fine per ascoltare ascoltare vanno tutte bene, anche quelle non perfettamente tarate. Vabbè, io le attacco, una volta le attaccavo con base magnetica, no? Da 16, e c'ho questo attacco a portiera orientabile in tutte le direzioni, l'ho lasciato fisso col coverage di 58, e tolgo il cappuccio, avvizzo e faccio, dai. Va bene, riprendete voi che io devo fare roba in cucina, ok? Gianni, sei rientrato? Ma almeno dici cosa stai cucinando. Pasta, pasta con una specie di pesto tiguglio star, tiguglio, noci e boh, non so cosa ci sia dentro, un sugo pronto, perché sono tornato tardi e quindi bisogna usare mezzi veloci di fortuna per mangiare. Nato di questo, non ho voglia neanche di fare il sugo, per il mangiare. Ah, poi ci hanno invato, ma beh, nulla è preparato, perché io sono stanco, Dice, e cosa mangiamo? Vai, adesso faccio la pasta. Ehi, dunque, bellissima giornata oggi, il mare stupendo, c'era anche la luna piena, c'era il sole da una parte e la luna piena dall'altra, tutto molto pittoresco. Dai, riprendete, a dopo. Ok, beh, allora stanotte dopo un video riuscirà a andare sul tempo a ovulare, bisogna andare ad una forza. Natalie, davvero? E io per paura del coronavirus non sono andato al campo stamattina, perché quelli tutti si toccano la mano, poi io sono da me che manco e quindi mi avrebbero anche abbracciato. E magari anche baciato. Baciato, non... può darsi anche baciato. Poi io, no, sto vedendo cose allucinanti, allucinanti, cose da... paura veramente. La gente che praticamente sembra di un altro pianeta, di un'altra nazione. Oddio, non fa niente veramente, cioè, stare un po' attento. Se te lo dicono poi peggio fa. Allora, se ho visto filmati su internet tutti in giro, altro che rispettano la distanza di un metro e manco per le scatole, assembramenti nelle piazze, ma io? Oh, io una volta tornato a casa, cioè, scusate, una volta uscito dal bar, cioè, toccato i soldi, toccato il resto, toccato tazzine, coso, c'erano quelle salviette disinfettanti monodose, no, salviette impregnate, no. Io per sicurezza mi sono bello sfregato le mani, bene, bene, bene, così abbiamo fregato il virus, perché sai lì, chissà, tutte le mani che ci passano, le maniglie anche per entrare, no, immagina quanta gente la tocca in una giornata. Magari ti capita l'infetto e ne contagia tanti. No, anche, se uno tossisce nella mano, si tocca gli occhi ed è portatore, ciao Fra. Sai perché? Te lo spiego Fra, perché io ho il vizio di toccarmi il naso, mettere il dito nel naso, toccare gli occhi, la bocca. Quindi se tu tocchi una superficie contaminata da uno anche portatore sano e poi mi tocco gli occhi, il fatto è, Ciao, buonasera, ben ascoltato. Purtroppo Marco c'ha ragione. Diciamo che la gente sta veramente esagerando a pensare che va sempre tutto liscio, tutto bene, ma no, non funziona così, non serve uno di bene. È una cosa spietata che quando tocca, perché adesso abbiamo visto solo la gente con le mascherine. Però i medici che ci hanno fatto i visiti veramente sono preoccupati al cupo, stiamo già parlando di emergenza sanitaria, che vuol dire che se ti capita qualcosa, anche un incidente, così rischio veramente di non poter andare neanche in città, se ti capita quello va in giro, quindi l'emergenza dovrebbe essere già una cosa. Sì, però non funziona così. Ho detto che non è una cosa che essere opinione di tutti o del singolo, è una questione scientifica, è per quello che il governo non sta parlando in quanto come politica, ma in quanto come disposizioni scientifiche che vengono da un comitato di virologi, tieni presente che tra l'altro noi abbiamo solamente virologi di altissimo livello a livello mondiale, che stanno dicendo, che stanno anche incassando, stanno dicendo insomma, ma la volete prendere seriamente questa cosa? Perché è una guerra, stiamo parlando di guerra. Perché se tu non la continui, l'unica arma ora come ora che abbiamo è quella che si chiama contenimento. Quindi, come facciamo con le navi, come facciamo la dinara per intenderci, ma che c'è la zarina. Cioè chiudere, isolarlo lì, sperando di riuscirci. Se non fai quello, dopo, guarda, solo ieri ce ne sono stati altri 1000 casi, così di colpo, in Francia lo stesso. Deve avere il coraggio di fare le cose che vanno fatte, e le cose che vanno fatte le stanno, bisogna solo attuare. E poi non c'è tosa, non c'è tappunto, eccetera. Chi c'ha questi sintomi si deve rimanere a casa, appunto e basta, perché è una pandemia. Per chi conosce il significato, la cosa è ovvia, no? C'è poco la risposta. Ah, fra, ben sentito. Io ne approfitto per salutarvi tutti che devo cenare. Ci sentiamo alle prossime, da. Ciao a tutti. Il traverso. C'è il colma, io devo pranzare, Natalino sta cenando, il mondo è alla rovescia. Vai fratto per i saluti. Sì, comunque vabbè, sì, i giornali poi ingrandiscono mille volte, però l'importante è non prenderla troppo sotto gamba, perché questa è una cosa puzzinosa che se dovesse sfuggire di mano, perché poi cioè, ci avranno un... Se centinaia di persone devono andare a rianimazione in casi gravi, e mancano le apparecchiature, magari anche il personale, comincia a diventare, la gente morirà, insomma non bisogna farla sfuggire di mano un pochino, bisogna stare un po' attenti senza esagerare, naturalmente. Lo sveglio un fratto. Sì, ciao Natalino, buona serata, ma avete ricordato anche l'ora di cena, vabbè, fate l'ora di colazione. Sì, se sfugge di mano, sfugge di mano, cosa pensi che succeda? Nel momento in cui non si viene neanche più morito a casa, quello che c'è di fini è che poi sia un'influenza, che sia un fatto, che sia un coso, che dicono, caro mio, arancia, sì, non c'è nessuno, tutti gli altri sono malati come te, questo succede. Avete visto le immagini di Ebola, che lo stesso non ha un capirale, quello che succede in Africa, quindi veramente hanno fatto, quella è molto più letale, quella è più letale, però questa si sta dimostrando cosa, non è certo un'influenza come tanta gente pensa. La risposta invece per Franco è che il punto di qualche cappello è proprio il problema, perché no, non è che oggi ti senti male e da domani sei infettivo, no, ci sono due giorni in cui tu puoi stare anche benissimo, però se c'è questo, e lì c'è il problema, come faccio io a sapere che c'è questo? Non lo so, e quindi è per questo che creano spazi di contenimento, perché d'altronde è impossibile fare a 60 milioni di persone a fome, e poi non è scuso che te lo faccio io, se domani sarà prendi. Quindi è chiaro, questo tema c'è un fome, anche se non lo dicono, perché sono stato impegnato a dire cose di casa nostra, però negli Stati Uniti sono gli ospedali che si stanno tremando, letteralmente tremando, perché non è perché il fondo, questa è la cosa assurda, loro non hanno niente, non hanno né tamponi, non hanno... avendo un sistema sanitario generalizzato a chi c'ha l'assicurazione solo, sono in grave difficoltà, ma è vero che c'è migliore che sono fatto in assenza, e come sapete negli Stati Uniti stato di emergenza significa che si mettono i soldati nella strada armati, vero Marco? Ah, tu Contagion l'avevi poi guardato, Contagion, guarda, sembra molto attinente. Molto attinente, è realistico, non è con le jabiture, è con i militari. Vabbè, quello di Dustin Hoffman era carino, un virus letale, però era tipo un virus tipo ebolesco, fatto dai militari in laboratorio, vabbè, lì c'è tutta la storietta. Il Contagion era molto molto realistico. Consiglio di vederlo, così vi angosciate ancora di più. Cap. Vai fra. Sì, guarda, purtroppo la storia, molta gente, è conosciuta, per tanti altri invece che non hanno riaccolto, non si erano più nomi, esattamente quelli come è stata la prima guerra mondiale. Dopo, anzi, anche durante, alla fase finale della guerra, poi è arrivata un'influenza che ha provocato un disastro, naturalmente un disastro con milioni di morti. Hanno portato i soldati americani, sono sbarcati per aiutare i francesi. È vero che li hanno aiutati, però hanno portato anche la chiesa spagnola, che è la spagnola perché gli americani sono sbarcati in Spagna e non hanno raggiunto la Francia. E questo è difficile in tutto il mondo, guardi, per tutta la nonna non c'era nessuno in famiglia, come ha pensato con me, quindi sarebbe meglio ricordare la stessa. Ma poi a tuo, poi a casa che avevo visto, ma è stato tornato, siamo in altri punti di giornale, ecco. I giornalisti sfruttano qualsiasi notizia per lucrare. Non parliamo dei social post, fate la raccomandazione a la stessa. Non guardare i social, solo le notizie che arrivano dall'OMS oppure da ISS che sono gli unici autorevoli sono quelli, tutte le altre sono fesserie. Sì, dai, io sono stato molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene, sono molto bene. Gianni, si è rientrato, doppio room. Sì, era entrato, ma doveva mangiare. Natalì, ci sì. Vedi che non vuole male. Natalino, c'è andato che ti chiede. Sono andato a Natalino. Ciao, Fra. Ciao, Gianni, ma te? Sì. Ecco, questo. Vai. Spero no. Ciao, Marco, era andato a dire. Gianni, fa parlare, buttava il microfono. Scusate, ma non ho chiamato a cena, buona giornata a tutti, ciao, buona serata, scusate, ciao. Ciao, Gianfra, buona carica, ci sentiamo. Avanti, Marco, dai, parla, sappiamo, per non accreditarla. Ciao, quanto è combinato? Niente, sono andato qui, era solo qua, e ti dico, no, mi sono andato qua a farlo. Ho portato il cane e cani a pastiglia, taglio, ci avevo fatto 2 minuti, a piedi. C'era congelato, abbiamo preso un bugliare, ci avevamo preso. Cani, caro, una più bella la tua. Cosa ce ne devo fare? Il cappello del conto è bloccato. Non c'è buttata, malissimo. Che cazzo, altro dato fondo. Anche io se parlo così, mi danno un vero e ce l'ho forte. No, la mia opinione è che Gianni il caldo non si batte. Cos'è? Ho detto, la mia opinione è che Gianni il caldo come modulazione non si batte. Poi ha un vocione da Homo Maduro, ormai è grande, quanti anni ha? 18, 20, quant'è? No, non è Marco mio figlio, è l'amico mio, Marco l'amico mio, siamo tutti Marco, tu sei Marco, lui è Marco mio figlio, e lui ne ha 62. Ah, Marco l'amico tuo, credo Marco tuo figlio, ho capito, dai. Oh, devo scolare la pasta, vi lascio, a dopo. Sì, va bene. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco. Allora, 5 è aperto una nuova, osserva, vedi che avete sentito. ha pagato. Bravo, Marco, ciao. Taglio con un battato da raccanto. Sì, a Marco, lo conosco da Marco, da quando eravamo amico. No, era segno, io lo conosco, 30 anni. Non sai, qui si sono divisi, lui è andato a lavorare in ferrovia, io sempre lì. E poi sono andato in ferrovia, io per un anno me ne sono scappato e sono ritornato lì davvero ultimamente. Perché non stavo in Ubello? Io ho un amico che era al passaggio a Ubello, poi l'hanno... è stato di grado, praticamente i passeggeri ribelli li hanno automatizzati, li hanno fatto perdere la patente e adesso guida il Sirio, guida la metropolitana, poi ha avuto problemi di salute e l'hanno trasferito in ufficio, sta benissimo. Sì, ma io me ne sono andato prima che facessero quello, poi gli hanno passato tanto ieri, in effetti il posto mio l'aveva preso mio compare, l'aveva preso. E poi c'è stato cantoniere lì, perché poi i canini hanno tutti. E poi è stato bene. Ultimamente era là, ma adesso l'hanno mandato via perché come a te ho detto, in abilità del lavoro, l'hanno mandato via. Cappa, cappa. Purtroppo non è così che vogliamo noi. Luca. Ma la Marina? Ma quell'antenna la perdete, se oggi più tu via tutto io, ma ha fatto studio quella lì di nuovo, che ha battuto le scatole, addirittura vuole che faccia una lettera dicendo che ho piantato l'antenna nuova, dico tutti, perché dice che sono fatti comune, non devono sapere di più. No, ma è piantata, cosa spiega, cacca e dorme, ma stiamo scherzando. Perché abbiamo lasciato la terra vecchia sulla ha detto che ci non ci deve essere nulla sul tetto, beh scala, perché se non è là c'è anche la scala per salire per derubare, capito? Per scendere, per fare. Togliere la scala e tutta quella chiccaniglia che c'è. Serve di terra, se no io prendo la battuta, butto via tutto qua, perché se no posso stare a questa cosa per dire quanto ci vuole. Oh, se avete bisogno. Basta un fruscio, l'importante è che ci sia in macchina mia di lungo. Ma oggi anni? Ma tutti padroni di casa siete lì? Penso di sì, io lo so. Poi non so se tutti siano padroni, magari c'è padrone che non figlio. Ogni padrone di casa c'è il senso suo, dovrebbe avere lo stesso di terrazza. Per l'antenna, queste cose qua, e non dovrebbero chiedere, non devi chiedere niente a nessuno, devi chiedere, come gli altri non devono chiedere niente a nessuno, né a te né a nessuno, a tutta. Se tu hai comprato lì, e gli altri anche hanno comprato, poi chi è in affitto? Ma di più in affitto, ma non gliela affitto in nulla. No, non è così. E poi lì ci sono accorti che sono saliti là dal tetto, sono entrati in casa di questa qua nella massata, sono entrati, hanno rubato tutto loro che aveva, l'altra di mattina lì, hanno rubato oro, questa qua è insegnante, è tornata dalla scuola e ha trovato la casa sotto sopra. Hanno spaccato la finestrella che c'era il coso dell'ascensore, sono entrati dentro. Sono passati dal ferrato, si sono calati e sono andati nel corso, nella passata. E hanno rubato tutto, quindi questa qua non vuole più che salga nessuno sul tetto senza permesso. E fa studio di volta, capito? Che se ne vado a fare con lui non ne faccio niente, non mi ha potuto dare, adesso mi dimentichiamo. E niente, però c'è quella roba lì pure tutto, c'è la scala e c'è tutta l'antenna che mi hanno detto che ci pensavano di settimana. settimane, ancora lì. Poi la sanità ha bisogno di dolce, ma non ha ancora poco questa roba. E noi se io non ho fatto tempo, proprio non operato, coso. E non per mai la tuggere, perché se l'hanno poi non ci deve rimanere niente su me. Se noi c'è tutto pulito, cosa devo fare? Prima che lo facessimo il lavoro. L'anno scorso. E hanno fatto, non so cosa c'era, c'erano le grate, no? Però queste grate di ferro erano avvitate da sedi, quindi l'hanno slittata, hanno buttato fuori le grate, e dall'interno l'hanno slittata e sono passati da questa finestretta, capito? Adesso l'abbiamo cementata, proprio per non sfasciare più, ma se vogliono la taglia una cesuia, fanno quello che vogliono, nel tetto che non si accorge nessuno. Ma se adesso ci di fare un vetro di quello brindato, e lei non è stato nessuno. No, io avevo l'intenzione di fare una cosa, attaccare la figlia lì, come non attaccarla se vengono attaccati loro. E lui ci ha detto a voi. E vabbè, comunque se riuscite a portarmi via questa roba, ma vabbè, io adesso se l'ho messo male, lasciamo passare un po' di tempo perché mi devo riprendere. Devo riuscire a camminare io perché voglio sentire io se quando fate il lavoro non si accaroppano le barre. E la scala con le porte attaccate di nuovo, perché dice che così dovevo modo se arrivate di usare la scala per servirsi di quello che si devono servire. Ecco, va bene, vai già. Ci sentiamo che ne stiamo chiamando. Ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao Luca e ciao Marco, anche Marco Pollo. Ci sentiamo nel prossimo video. A voi, Gianni, voi girate. E ciao, ora ci sentiamo, dai, buonasera. Avanti, Marco Pollo. Ciao Franco, buona serata, buon tutto, ci sentiamo, scusate che ci ho là. Il volo a mezza altezza, dai. Vai Gianni, Luca per i saluti, dai. Non è che c'è il volo a mezza altezza? Il volo, il boccone ingoiato, ce l'ho a mezza altezza, non scende. Ecco perché ce l'ho, c'è strano. Ah, non ti vedo il volo a mezza altezza. Vabbè, è praticamente anche questo. Beviti un po' d'acqua, no? Cosa te lo devo dire io? Luca, adesso stavo ascoltando un messaggio sul coronavirus, stanno dicendo che si stanno trasferendo tutti qua in Sardegna, milanesi e cosa. Praticamente noi non siamo attrezzati per... già per noi non siamo attrezzati, non abbiamo il bustiletto eccetera eccetera, e più sono bene di chi si. C'è la salata, ma non esce con me casa al mare, capito? E secondo te, è giusto che ce l'hai, c'è questa cosa qua, più qua, sembra giusto che li facciano trasferire qua. No, questo non c'è niente, non manca. Ma è facile, devono portare tutto dalla zona loro, capito? Devono portare tutto, non fatti venire, perché se vengono qua c'è un casino davvero. Se ce ne sono in piedi, che aspettano qua in Sardegna, che da c'è per tutti voi. Perché non ci sono posti dentro, non c'è attrezzatura, hanno chiuso ospedali, qua è un casino. Non è quello, va bene, là. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo, avanti. Già lo sai già com'è demenziale il nostro pronto soccorso, no? Immagina decine di persone impaurite o centinaia che vanno a chiedere aiuto perché non riescono a respirare bene, tosse, febbre. Per carità di Dio, per carità. Noi abbiamo un pronto soccorso non da terzo, da quarto mondo. No, ma ci sono le terre che fanno da filtro, infatti solo che lo puoi fare quando sono poche persone, quando sono più male di gente, come hanno fatto, ma ha salito Trini, Napoli, di tutto e di più, capito? Ma tutti correndo, te lo fate vedere al telegiornale, ma non so se l'hai visto, tutti correndo, casa per la metropolitana, in fretta, casa per prendere il treno e venire qua. E qua si spaventano per molto, no, molto, non dico poco, però. E poi la gente impaurita è pericolosa anche perché ti travolge. È bastato, ti ricordi quella discoteca, c'era quel DJ, come si chiama? Dove vanno tutti i ragazzini a vedere sto DJ? È bastato che un cretino spruzzasse un po' di spray al peperoncino, bastava mettersi la maglietta sulla bocca, il bestiame ha cominciato a urlare e correre e qualcuno è morto, è rimasto schiacciato, mi pare, o era caduto dalla passerella, non mi ricordo. Le persone sono come il bestiame, quando gli viene l'attacco di panico non li blocchino, è come una mandria di bufali, è come li fermi. E non fanno vestito a scappare, non fanno. E se c'è sempre delle tribù, le... una volta non si erano trovate le tribù, le piccole uova, ma tanti anni fa, era se c'è la stessa cosa, era un panico, non scappava. Infatti venire qua, infatti gli hanno detto di stanze dove sono, perché così peggiora la situazione. Loro vengono nelle seconde case qua, se stanno male poi cosa succede? Che non ci sono posti per i peggiati, non dice non c'è per voi, per i sardi, figurati per voi. Basterebbe, che non è così, vabbè, basterebbe un'ordinanza, che ne so, bloccare i traghetti passeggeri, le navi passeggeri, solo navi merci, se no rimaniamo anche senza mangiare se qua la cosa va avanti. Vabbè, gli aerei dovresti bloccare tutto, non è fattibile adesso che ci penso. Navi, aerei, come fai? Come fai? Ma... devo dire. Gli ordini fatti dai magazzinieri sono triplicati nei negozi di supermercati alimentari. Ah, gli ordini, perché ma da noi meno male che non c'è stato il fenomeno della... degli acquisti di massa, no? Che vanno e svuotano qualsiasi cosa si comprano e lasciano gli scaffali vuoti, però c'è già. Prima o poi arriverà anche da noi, c'è paura a fare, da una parte o dall'altra arriverà. O uno si fa un po' di scorte adesso, proprio cose strettamente necessarie. Addirittura io avrei voluto quelle razioni di emergenza secche, che le mische con un po' d'acqua e fatto una... questa specie di pappone tipo salicrusca, no? È tutto cereali praticamente. Cereali, vitamine, forse anche proteine, insomma, sono fatte apposta per sostentare, sai, quelli villaggi del terzo mondo che muoiono di fame. Li vendono dalla Germania e durano 20 anni, li puoi stoccare per 20 anni, perché è roba secca, disidratata. Certe volte penso che bisognerebbe avere roba del genere da parte. E bisogna anche affrettarsi, perché se cominciamo a essere qua tipo a Milano, in Lombardia, in tutto il nord Italia, e... insomma un po' seccante comincia a essere. Vabbè, è un casinone, è un po' una guerra, diciamo, dica che prevole, come quando c'è la guerra del dopo, te lo dico. E io... se non va via avanti non ci sono, non c'è problema. E la cosa va da un po', ma non c'è un po', ma non c'è un po', ma non c'è un po'. Ehi Alu, buona trasferta, dai. C'è un odore di gas qua, sai perché ho usato quel sugo che era un sugo tigullio tipo noci e tartufo, il tartufo c'ha un odore di gas, che viene male a dirlo, e uguale uguale. E sai già, sono tornato tardi, io ho detto ma sono stanco, lei già non ha fatto nulla, è stata tipo larva tutta la sera sdraiata a letto con la TV. E arrivo io, ho dovuto, vabbè, fare la pasta, veloce, il sugo era pronto. E se non se dovessi stare a fare il sugo, qua mangiamo alle 10, prendiamo alle 10 di notte. Vero. E io te lo preparo ancora il giorno prima. Ce lo metti in frigorifero, guarda il sugo, io a volte lo faccio e lo uso anche il giorno dopo, quando ti serve. Sì, ma qua siamo finiti che prendiamo sughi pronti, sugo al basilico, tutta roba già pronta. Fa meno bene, però non... io gana non ne ho proprio. Mamma, vabbè, così. A proposito di mamma, le stavo dicendo a mia zia che gira gira, non pensa, non conviene nemmeno che si ricoveri, metti che la chiamino fra una settimana o un mese, e cosa ti ricoveri in piena pandemia? Così se muore, ci muore di cosa, di muore per un virus anziché per l'operazione, se l'operazione si supera e rischia di crepare, perché lo sai che gli ospedali può diventare una bella fogna, no? E tutti si ammalano di tutto negli ospedali. Lo so, io stavo temendo quello, lo sai. Perché aprono le finestre per le pulizie, casa dal corrente. No, ma la chiude quella parete, mi piaceva, a me non mi interessa, tutta la finestra che a fianco a me, casa, mi sono piaceva aperta la finestra. Ho detto la chiusa, perché non mi interessa, asciugherà tanti, ma almeno io non mi prendo i malati. Casa non cuidare, stavo già starnutendo. Poi Marco, mi stava succedendo una cosa che ho cominciato a non più in una maniera tremenda, sotto l'acqua a casa non mi è più successo. Mi bruciavano gli occhi, ci facevano rossi, stavo sempre sfregato, ma per cui bruciavano. E poi più li sfreghi, più bruciano. Come ho scritto poco fa in un messaggio un amico, io c'ho il vizio di stare sempre con le mani, le dita al naso e le mani negli occhi. Quindi sai, andando al bar, lì tocchi la maniglia per entrare, tocchi le tazzine e mi chiedo se le abbiano sterilizzate, ho toccato i soldi, ho preso il resto, quindi sai, perciò mi ero portato appresso salviette disinfettanti, mi sono sfregato le mani, ma non due secondi, un minuto, una, bene, tutto in mezzo alle pieghe delle mani, delle dita, tutto, e un minuto l'altra, meglio prevenire. Vabbè, poi se succede, succede, se lo sai. Poi male che vada, mi se viene pandemia brutta, tipo film, io già c'ho il completo NBC, maschera integrale, tutto NBC, e buonanotte a secchio. Sì, ma non dormi con la maschera, te la dovrei prendere questa maschera. Sto operando lì che è lo stesso, lui, Marco, servono se non c'è più. Io non ci credo molto a queste cose. Comunque, l'unica è stare chiusi in casa, così hanno detto, specialmente per gli anziani, meglio che non esca. Sì, infatti non tanto per me quanto per mamma, che per quanto non abbia comunque malattie, come si dice, pregresse o in atto, c'è sempre la sua età, 77, anzi 77 li fa poco, mi fa pochi giorni, e quindi è meglio che rimanga riguardata. No, ma poi sai cos'è già? C'è un protocollo a seguire, anche se uno usa... Ti devo mandare un file PDF, no? E vedi come fanno gli operatori della Croce Rossa in caso di virus, soprattutto o sostanze chimiche, più che altro virus. Tutto un protocollo, cioè loro prima di togliersi la maschera, tutta quanti, si devono disinfettare... Anzi, su quel documento non c'è scritto, si devono disinfettare con soluzioni tipo ipoclorito oppure alcol etilico. Lasciate agire qualche minuto e poi si possono togliere maschera, no, non è fattibile, però lo può fare l'esercito, le ambulanze, tutti gli organi di cosa, ma un privato non lo fa, non c'è lo spazio per... vabbè. Noi l'ambulanza, quando tornavamo nei servizi, la pulivamo tutta in ambulanza, anche quando non c'era il virus, quando tutta in ambulanza la io. Oppure se non ti disinfetti c'è la zona pulita e la zona sporca, e bisogna stare attenti togliendosi la roba a non toccare assolutamente le zone esterne, tipo maschera, tipo tuta, ma devi fare un'attenzione allucinante. E poi anche quello che ti assiste comunque c'ha lo stesso protezioni, un casino è. Purtroppo i virus sono molto bastardi, bastano nulla. E se dobbiamo fare gli anticorpi, se non hai anticorpi, queste cose, becca sempre la gente debole, capito? La gente... Io c'ho sempre un pochino di tosse, ma ce l'ho da un po'. Ogni tanto mi viene, sai perché? Allora io quando esco e mi accaldo con la giacca, poi arrivo a casa, dove non c'è riscaldamento fisso, no? Mi tolgo giacca, felpa, cosa, rimango in camicia sottile, proprio perché ho caldo e devo, sento la necessità di liberarmi di tutto, però poi succede che rimanendo in camicia sottile mi raffreddo, cioè ritardo molto nel rimettermi tipo una felpa, allora comincia a venirmi un po' di solettico, sai, alla trachea e mi inizia a tossire e mi frega sempre così, mi alleggerisco troppo al ritorno, però poi mi viene freddo e tosse, e vabbè, mi frega sempre comunque, purtroppo devo fare un po' più di attenzione. Io in realtà il pigiama lo metto solo a notte inoltrata, seppure certe volte mi addormento vestito quando riesco a dormire. Non sa perché io il pigiama, perché lo metto la notte? Perché io da quando, già lo facevo prima, da quando mamma era stata abbastanza male anni fa, no? Io devo essere sempre pronto a qualsiasi evenienza, cioè vestito, non che ti devi mettere tutto, vestiti, pantaloni, coso, scarpe. Io mi spoglio solo prima di andare a dormire, con il pigiama. Poi sai, bussa gente, a me non mi piace farmi vedere in pigiama, è una cosa che detesto, è una cosa proprio che detesto. Vabbè, aspetta che prendo fiato. Penso, sto mangiando a ratte perché gira gira, non avevo tanta voglia, ma troppo me ne sono messo di pasta. Ma io non è che sia tutto ciò in pigiama, ma a parte adesso, perché è un'esigenza che ho, perché ho la ferita, non posso mettere roba che stringe, roba. Ecco, però normalmente io torno tardi a casa verso le 10 o mezza, così quando esco. E poi quando rientro a casa mi cambio, metto il pigiama e mi sdraio, non mi vado, non mi tratta più capito. E comunque conosco persone che appena arrivano a casa, uomini, donne, appena arrivano a casa subito si mettono la tenuta da casa, tipo pigiami, oppure così, magliette, pantaloni, tutta, no? Io non ci riesco così, perché magari, che ne so, bussano, c'è l'urgenza di spostare la macchina perché magari devono fare lavori improvvisi, tanti motivi, tanti motivi. Cappa. Vediamo se Natalino ha mangiato, sei rientrato. Io mi sto andando per andare in bagno. Fai. Ma lo sai che la donna ha avuto il cazzo e te mi sono sentito pisciato, quello che bisogna arrivare. Sono rientrato, ma eia. E io ho finito adesso la pasta, a me pure fredda, mamma mia, quando è fredda non ti scende nemmeno, pucci. Sì, sempre meglio della roba dell'ospedale, cioè. Povera mamma, ma carità. Allora, io la verità, io non, in ospedale gira e gira, io ho sempre mangiato normalmente, non mi lamentavo più di tanto. È che sono passati tanti anni dai calcoli, no, l'operazione. Invece a Milano, il giorno prima, no, veniva una signorina con una specie di computerino, no, un tablet, e ti diceva: cosa preferisce domani a pranzo? Guardi, abbiamo tipo, ha scelto tra tre primi piatti, ha scelta tra tipo tre secondi, due, tre secondi piatti, anche quattro, dipende dal giornata. Se ti chiedevano il menù che volevi per il giorno dopo, sia per il pranzo che per la cena. Quella era una cosa che ho apprezzato molto, perché almeno mi pigliavo quello che dicevo io e non il pasto fisso. Oppure non lo so se lo facciano anche da noi. Com'era lì già? Pasto fisso oppure... Oh, ci sono i pastrulli. Tutti fatti invece in quelle portabrasi di plastica, praticamente o non sono patate oppure vanno neppure, sono patate schiacciate bollite senza burro e senza latte e senza sale, sapore di patate e basta. E il primo quando ci sono quello lì c'è quello lì, poi c'è la pasta asciutta, l'osso, un po' di spinaci. Spinaci bolliti senza polviglie, senza. Oppure c'è pollo, patate, arrosto, minestra con ortaggi, con lenticchie, roba così. I menù sono questi, sono la domenica, ti danno ravioli, ti danno la pasta al forno, poi tutti gli altri giorni, la sera c'è il brodo, brodo, carne e arrosto morto, però sempre in cibo non si può mangiare. Non c'è del sale, né nulla, vabbè io mi accontentavo, però c'è gente proprio che non mangiava nulla, io qualche cosa la lasciavo per probabilità, perché non c'era. Infatti oggi l'ha negato, c'avevo tutta la pelle scesa quando sono stato all'attacco, adesso mi sono detto. Per caso la laser lo fa anche per gli ospedali, quelle porzioni lì preconfezionate, chi le prepara la laser? No, c'è proprio l'ospedale, ci lavoravano anche le figlie di quegli amici che c'è a casa da rimane, all'ospedale c'è proprio la mensa dove preparano i pacchi. No, ero convinto fosse la laser, visto che serve. Vabbè. Poi lì a Milano, vabbè, ci sarà un'altra ditta che faceva sempre roba sigillata lì. Poi era bello che te lo chiedessero il giorno prima. C'era abbastanza scelta. Poi io già mi mangiavo cose molto molto morbide perché avevo paura che masticando, sai, sforzando anche i muscoli di mascelle, di. Avevo paura che si bloccasse il tappo che avevano fatto per chiudere dopo l'operazione lì. Avevo una paura che sanguinasse o che si. Se no ti dovevano fare una seconda operazione dove ti semplicemente chiudevano il foro fatto. Però sempre torna il catetere, torna l'anestesia. Quindi ho fatto di tutto per evitare complicazioni lì. Vabbè. È andata. Dove però ci penso. Per carità. Anzi, meno male che comunque queste tecnologie ci sono adesso. Una volta, fino a pochi anni fa avrebbero dovuto aprire il cranio di lato, lo sai. Aprire la testa e. Tutto molto più complicato, più delicato, infezioni, eccetera. E la degenza sarebbe stata molto, molto più lunga. Invece a te te l'ha mancato, c'è un punto che l'ha mancato. Eia, si chiama ossos. Come si chiama? Sfenoidale. Sì, sfenoidale. Praticamente tu, le narici hanno una certa angolatura, no? Tu arrivi in fondo e c'è la mucosa e sotto c'è l'osso sfenoidale. Ora un avvocato e passateli in endoscopia. Hanno tolto tutto quello che potevano togliere. Naturalmente non si sono fidati di scavare troppo verso l'encefalo, verso l'alto, quindi un po' ne è rimasto. Perciò io devo fare la risonanza di controllo e se necessario radioterapia per bloccare eventuali recidive. Mi hanno anche detto che comunque per formarsi quello è roba che ci ha messo 20 anni, è roba proprio a lunga scadenza, lunghissima scadenza. E dice è strano che non abbia dato altri sintomi. Dice lì poteva andare in coma da un momento all'altro così senza accorgersene. Senza sintomi premonitori, ma torniamo bene. Era limitata questa. Purtroppo sempre lì devono accedermi, alla scatola cranica, e bucare l'osso, bucano la dura madre, e lì c'è il liquor cerebrale, lì basta un batterio, basta un. Mamma mia! un singolo batterio che ci entra fa danno lì. Meglio non pensarci, guarda. Però vedi, dolore nulla. Mi chiedevano sempre, ha mal di testa? Io no, perché devo avere mal di testa? Ma qualcuno magari un po' di mal di testa glielo faceva, ma leggero, niente di che. No, io ho fatto dei dolori fortissimi, dai muscoli, specialmente non alle ossa. Il muscolo va da parte di due anni, per quello si sta deformando, i dolori che c'è sono. Ma tu a casa cosa puoi prendere come antidolorifico? Cosa prendi? Occhio o qualcosa di più forte ti hanno autorizzato? No, posso prendere tu, ma da un po'. No, là mi hanno dato, cioè, là mi hanno proprio drogato, la morfina l'ho dato. Quella è roba buona. Peccato che la danno solo negli ospedali, cavolo. Oh, era tutto un anno, non capivo nulla, cioè per quello che mi hanno chiuso per la fine. Quando mi chiedevano, l'ha fatta la terapia, secondo me, io non so, se ho capito, vabbè. Controllavo il registro, che adesso cosa gli costa? Uno, quando ti fa la terapia, la segna e basta, cosa cazzo lo chiedono a me? Vabbè, ogni volta mi dicevano se l'ha fatta la terapia prima o se l'ha già passata, capito? Eia. Quella giustamente deve sedare dolori forti, senza di quella sarebbe una cosa atroce. Uia. Mamma mia, adesso subentrerà piano piano la piocco, a quest'ora già. È la giornata per Marco. No Marco, ti volevo chiedere una cosa, quando ti chiamavano venivano subito lì? Oddio, io ben poco li ho chiamati, anzi direi nulla. Sì, forse una volta avevo chiamato per chiedere cos'era quella pulsantiera a fianco al letto, no? Tipo per reclinare... Sì, comunque lì erano, diciamo che era messa a raggiera, no? Cioè gli infermieri stavano al centro con computer, con la stanzetta loro, ma poi le stanze erano quasi tutte messe a raggiera, non proprio tutte. Comunque sì, chi chiamava arrivavano abbastanza in fretta. Poi riseguito molto, c'erano infermieri e infermieri di tutte le nacionalità, ce n'era uno un po' di carnagione scura, sembrava tipo cileno probabilmente era. Positivo la cavarrota, era la cosa è questa, ragazzi. No, ma passa, passa. E dove ti sto dicendo? Perché volevo dire, no, qua li chiamavo, se ne stavano le scarpe. No, se mi dice il papà, diceva, noi siamo pochi, invece che in tanto siete tutti allentati, quindi devo accontentare a te. Ma cosa devo passare? Ciao Lucariello. Gianni, cosa devo passare? No, già vabbè, io abbasso un po' il volume e è risolto. Comunque ho già, tranne che avessero emergenze, veniva subito, anche quando erano altri a chiamare. Sì, e qua invece dice che erano pochi e che infatti si erano tanti, tutti allentati, che loro dovevano essere attenti. Dalla parte hanno anche ragione, però non puoi lasciare una persona col farlo sporco tre ore. Allora aspetta, così bene va già Gap. E già va meglio, perché è troppo forte, non è che non vada bene, solo che a quest'ora, io sono 70 minuti adesso, e mi stupo se c'è la sciascia, passate qui un mattino. Ah, per quello, come mai non c'è le cuffie già? No, non ce l'ho, perché Marco le sta usando, me l'ha aplastata con un pin. Praticamente le scenari ci danno. E Manuela ha detto, ma non è che me le regali, se no, quelle di sono tutte in questa nuvellina. Sennheiser, belle. Esatto, le Sennheiser quelle che usano con proprio i DG. Ehi, ahia. Poi cosa altro volevo dirti. Vabbè, così abbastanza variegato, c'erano coreane, c'è un'altra mentalità, un altro tutto diverso lì un po'. Mai una, mai un infermiere o un medico che ti sgrida, non esiste lì. Qua vedevo primari pigliando a voce i pazienti che magari stavano anche male. Uno schifo di mentalità c'è qua. A me non fa bene a me se ero rincoglionito, perché dopo che ho preso quella cosa che ti ho detto, praticamente mi ha chiesto se avevo preso questa medicina, perché non me lo ricordavo. A casa c'era normale, adesso venuto qua si è rincoglionito, ma scusi, come si permette di parlare così? No, e se non mi sa rispondere, da ascolti, ma non sai cosa sto prendendo, c'è la morfina addosso. Per quello, ah, oh, mi scusi allora, Poi proprio quella che mi ha preso per tirarmi il sangue, mi ha bloccato tre volte che non trovava sangue, delle veline che sono flussi all'inizio, infatti. Comunque mi ricordo l'ultimo giorno, no, il giorno della dimissione, mi dovevano togliere quella lago cannula, quella con le prese multiple, no? E anche il braccialetto di riconoscimento col codice, ho detto, mi ritoglie i braccialetti, o i ferri, una cosa del genere, ho detto, come ci fossi in carcere. Ma tu cosa hai fatto? Trasfusione? No, no, no, però avevo la lago cannula che andava direttamente nell'arteria, fissa, e da lì mi davano il cortisone, facevano i prelievi credo anche per cioè lì devono essere pronti a intervenire in caso di complicazioni media. E mi ricordo che il lago che andava nell'arteria nel polso era bello grosso, mamma mia. Io ne avevo tutte e due le braccia, quelli con i punti, entrati, diciamo. Una è entrata unica e dall'altra parte avevo tre entrate, ce le avevo tutte attaccate con il freno attaccato. No, i prelievi non te li fanno da niente, da lì niente, non solo una roba, ma da fare i prelievi devo bucare di nuovo. Ecco, questa, questa che vedo se l'ho ricoglionito, mi ha fatto tre buchi e non ha trovato il sangue, con le rete, come non lo trovi? No, ho trovato lui, la prima me l'ha ciappata. Sì, anche a me, c'è ragione, i prelievi li facevano a parte, infatti poi, allora le mie vene non si vedono, per quanto io possa pompare con la, col pugno oppure battere, no, quando dai colpettini, non ho vene, non ho sangue, non, cioè, sono una specie di verme, vai Lucaria, e non rispondi. Allora, adesso è successo una cosa da fare la vittoria. Ci vedono anche le mani, me le hanno preso dalle mani, da tutto il braccio, un po' lavoro, presente ce l'hanno, mi facevano due prelievi al giorno perché ci avevo un valore che praticamente era il ferro, che ce l'avevo basso basso, quindi ogni giorno mi facevano, mi davano ancora il pastiglio da prendere e mi facevano due prelievi al giorno, una mattina o la sera. Sì, sì, anche sul dorso della mano, anche a me, e le vene lì le vedi appena appena di più, però al gomito, no, la parte interna del gomito no, non ne vedi bene, e lì bisogna andare a tentativi. Vai Luca. No, stavo controllando il segnale della RAI, ci ho messo da poco le antenne nuove, no? Vedi al 100% qua. Sì, ma poi l'ha acceso, sto un attimo. C'è, bravo. No, stato di segnale 100%. Segnale intensità 100%. E da là, sicuramente da là il problema. L'altro giorno avevo sentito radioamatori, credo dalla Sardegna, forse al sud, dice che non volevano più tutti i canali Mediaset e stanno cominciando a rivoluzionare i canali per via del 5G che arriverà e anche del nuovo codec di trasmissione. Allora io ho un televisore che me l'hanno regalato, praticamente c'era il pannello danneggiato, ma si vede che è recente quello, non c'è manco bisogno, adesso aspetto un amico che ha 32 pollici, se ne è abbastanza nuovo, un Samsung, e niente, adesso aspettiamo. Cioè, l'ho buttato perché c'era il pannello danneggiato, ma io glielo sostituisco, gliel'avevo già sostituito, era perfetto, solo che non era il suo, come ti ha messo la mano sotto, ho danneggiato il flat. Cazzo, la stavo portando giù a casa, era 25, e come l'ho acceso lì la riga, ma vaffanculo. Ah, il cavettino piatto con tutti i contatti, ehi. E il flat che va a connettere lì nella scheda poi, no? Lì sotto c'è un flat. Siccome non era suo, e come gli ho messo la mano, perché già c'era la cornice di lamiera che era da appoggiare, in più ci ho messo la mano e con il peso gliel'ho danneggiato. Infatti quando ho acceso il cazzo ci ho detto, prima di portarlo via da qua, da casa l'ho acceso 5-6 volte, l'ho provato, è perfetto, cazzo a bordo non funzionava più, ma vaffanculo. Capita. Oh Gianni, pensa che il televisore che ho in camera è un Grundig, no? Ed è uno dei, non dico primi, comunque a cristalli liquidi, no? Ed è un HD RIDI, non è nemmeno Full HD. Però il decoder che c'è interno prende solo i canali che sono standard, no? Non prende nemmeno i canali in HD, tipo canale 5 HD, Italia 1 HD, non li prende, proprio non c'ha, è obsoleto, infatti io sono molto combattuto se fare salvadanaio e pigliarmi un altro televisore, sempre 32, perché più di tanto non ci sta proprio, no? Solo che sai cos'è già? I tuoi televisori hanno solo le HDMI, non hanno nemmeno più le SCART. Io tramite SCART ho un bel videoregistratore che uso attualmente per leggere videocassette, perché non le posso più riversare al computer, no, in formato digitale. E me le devo guardare tramite... Il videoregistratore c'ha solo la SCART. Se io cambio televisore e me ne metto uno moderno, non posso nemmeno usare più i videoregistratori, figurati. Ma chissà che c'è la presa SCART che va attaccata al videoregistratore e poi ha le uscite per attaccare al televisore tipo nuovo, c'è audio e video. Come Marco, i televisori nuovi non hanno la SCART? Allora, io stavo guardando l'altro giorno dietro come erano i televisori, quelli proprio ultramoderni, quelli LED, no? Io ho visto, mi è sembrato di vedere, eppure l'illuminazione nel negozio è buona, no? Io vedevo solo prese HDMI, ma SCART sembravano sparite, perché la SCART conta, Luca, che è una cosa obsoleta, è una cosa da fare dell'80, primi anni 80, cioè ormai la SCART è proprio obsoleta. Giustamente non vendono più videoregistratori a cassette. Non c'è più nulla che usi SCART quasi. Addirittura i nuovi decoder, i decoder esterni, no, per il nuovo DVB-T2, alcuni hanno la SCART, alcuni non ce l'hanno nemmeno, hanno solo l'HDMI. La va a connettere con l'HDMI, se il televisore l'HDMI va bene, capito? Come per i, come si dice? Come per i giochi, uguale. A meno che non esista un convertitore, io parlo sempre per le videocassette, che converta da SCART a HDMI, una cosa che converta in segnale digitale, qualcosa c'è, poi sono veri di schifo, però l'importante è che io non ci butti, mi pare ne ho 1, 2, 3, 4 di videoregistratori. Cassette non, beh, mamma lo stesso, aveva comprato una marea di cassette in passato, certe sono ancora sigillate nel cellophane. Non posso immaginare, io ho ancora la lettura DVD, non la sto più usando, DVD, DVX. Magari DVX sì, DVX, i nuovi formati, come si chiama, MKV, che sarebbe Matroska, MP4, vabbè, XVID c'era già dai tempi di DVX, e ogni tanto si inventano un formato nuovo. Ok, vai Gian. Io Blu-ray, in più c'ho il videoregistratore che legge anche di DVD, è tutto uno, e c'è l'attaccata televisore più cucina che ho fatto due punti della ESO, che sarebbe un LG, e si vede benissimo. Io riguardo come c'è tutta la serie di Dario Argento, c'ho film comici, ne ho a roba. io sono molto... mi piacciono le cose del passato. Pensa che avevo preso anni fa un Penny, era un mangiadischi 45 giri, mangiadischi, andava sia a rete elettrica che batterie, è piccolino, rettangolare, con i bordi arrotondati e la maniglietta, una cosa, lo usavamo alle elementari, cioè roba da medioevo, eppure l'avevo trovato funzionante, se non che un giorno si sono rotti i comandi, proprio si è spaccata tutta la plastica, non è aggiustabile, l'ho buttato. Poi mamma lo stesso audio cassette ne ha un'infinità, funzionanti perfettamente, anch'io ne ho un bel po'. DVD non ne parliamo, sai, opere liriche, musica classica, lì un po' ascolta quella roba lì, anche Fausto Papetti, oppure musica da film, un po' di tutto. È che è scomodo col DVD, boh, cioè io me le trasferivo direttamente in MP3, poi uno dice ma la qualità non è la stessa del DVD, o meglio ancora del disco, e quello è vero, ma d'altronde che devo fare? E poi io non ho l'orecchio allenato, non ho l'orecchio così allenato per la musica. Cioè magari mi dai un DVD o un MP3, le differenze sono capace che non le sento nemmeno. No, io sì. E gli altri sette, ma comunque ci sono anche delle musicassette che ho comprato, che erano fatte apposta per registrare. E quello si sentiva perfettamente, non si sentiva contro manco che era una musicassette. Oh già, ti ricordi quella anni 90, i mini disc Sony, che erano mi pare una via di mezzo tra magnetico e ottico, piccolini, sembravano dei mini CD, dentro quasi una cosa quadrata tipo floppy, non so se ti ricordi. Sì, sì, me li ricordo, li usavo anche con mia mamma, l'avevo comprata in Germania, lo stereo e anche il disco. Però ho visto che hanno avuto poco successo, spariti, sai, io li vedevo i lettori da Perella, via Maggini, angolo via Roma, però dei prezzi bus, caspita. Io guardo che il tempo è quello che è, però c'è tutti i tipi di tale argento, volendo in cassetta, volendo me li guardo e mi faccio il tempo. C'è questo profondo rosso, mi ci deve chiudere il cristallo, mi cantano le cose, la sito per distendare, ne ho mille, il coro, tutti i tipi di tale argento, e più ne ho altri anche, quelli che fanno paura. E allora, già, come mai ti sei impressionato per quei quadri? Certo, a primo impatto fa impressione, però è in perfetto stile Dario Argento, quei quadri lì. Uno era fatto da Artemisia Gentileschi, uno da Caravaggio e l'altro non so nemmeno da chi. No, è impressionato, no, ma sono matta, ti capisco, stile Dario Argento, se io cercavo, io ho indovinato sempre che era l'assassino, lo sai. Per dire che era sempre un ministerio, parlava di una donna che aveva partorito e quindi ci faceva il cesare, aveva ammazzato il bambino e ha ammazzato tutta l'equipe che l'ha operato. Ah, poi ho guardato, comunque quei quadri sì, derivano da una storia biblica, no? Dove questo Oloferne era un condottiero che aveva soggiogato una popolazione, no? E questa Giuditta, no? Perché non voleva essere schiava di questi invasori, è entrata di soppiatto nella sua stanza e gli ha tagliato la gola assieme a un'altra donna, no? Che reggeva un sacco per mettere la testa dentro, capito? Decapitando il capo ci sarebbe stato il caos. Mamma mia, guarda, la Bibbia è terrificante in certi punti. Tutto ammazzamenti, tradimenti, uno schifo. Qua solo. Però a quel toccato lo squescica, però si è tutto di quel remo, si è perso l'anno come ne prende. Ah, quel remo è tipo elettrico? Non è sempre, non si può nulla. Praticamente è una telefonata. Ah, per quello, quell'antenna è silenziosa, guarda, quello, guarda, per i DX è un bijou, la silenziosità, te ne accorgerai. No, quando va per la toccata con lo squelci, toccata con uno, sbaglia la toccata con lo squelci. Ah, vabbè, comunque io un minimo di squelcio lo levo sempre, così il soffio di fondo lo levo. A me non piace avere le pause con questo psss. Infatti sembra di essere in PMR. Te lo immagini l'eco in PMR? A passo passo. Stavo guardando le specifiche Sony mini dischi, dice sì, unità magneto-ottica, cioè c'è una parte magnetica, una parte ottica. Vediamo, ci sembra un floppy trasparente, dentro c'è un mini disc, un mini, sembrava quei mini DVD o mini CD per il masterizzatore, non so se ce l'hai presente, quelli da 185 MB. Era anche un formato di tipo lossi, cioè perdeva un po' di qualità tipo l'MP3, capito? Perché la compressione c'era, quindi un po' magari ti taglia un po' gli alti, bassi, vabbè. Comunque se uno vuole MP3 un po' decenti, se li fa 320 kilobit per secondo, che è il massimo, e ancora riescono a tenere una qualità degna. Certo, se te li fai a 128 o anche meno, è lì sì che comincia a tagliare tutte le frequenze, è un peccato. Devi dare la, non ti ho sentito, la medicina Tyson. No, da mangiare, no, la medicina Tyson, abbiamo cambiato l'appetito alla grande. Ah, meno male, poveraccio, se no, mamma mia. E se no, quando sta male, poi ci... Inutile, quando uno ama gli animali, come sta male l'animale, stai male tu. Chi non ha l'animale non lo può capire. Lo stesso per gli altri qua, mamma mia. Riprendi Ruccaria, dai, che mi bevo oggi a pranzo altro che acqua, vinello bianco, frizzante. Praticamente era spumante moscato. Sì, perché è dolce, sembra blando blando e poi con il tiro a bere. Io con il filo di sorso, quel moscato. Sono sui tavoli del vignolo, mi sono messo a fare il papa. E poi quando è moscato, no, è dolce dolce, sembra gazzosa, però poi già ti entra in circolo. Era per finire la bottiglia, perché è aperta da due giorni. Anche questa domenica è passata, dai. A me piace anche l'ambrusco, ma... L'ambrusco? Molto, molto. Bello, dolce e frizzante, naturalmente, che sia frizzante. Anche quello sembra succo di frutta gazzosa. L'ambrusco è sempre frizzante, era sempre l'orantino. Sai perché ho visto delle varianti che erano, dice, leggermente mosso, era poco frizzante, proprio per chi lo voleva dolce ma meno frizzante. No, no, a me piace, deve fare la schiumetta tipo spumante, poi viene rossa la schiumetta. È buono l'ambrusco. Invece a me le cose secche non piacciono, nei vini, nei liquori secchi, pucci. Ma quello è toccato, quando ci sono varianti è toccato. Nasce così, nasce frizzante. E dovresti trovare quello originale, no? Perché tante ditte lo fanno, magari lo fanno con le bustine. Cosa ne so io? Il lambrusco anche da Lidl ce l'hanno, però cosa ne so? Magari è fatto con le bustine, è fatto col piccolo chimico, capito? Il labbiocco sta arrivando, non più con leggero vinello che ti... da quel senso di rilassatezza. Ma ora ti saluto io, ti auguro un pochino queste ore, mi auguro che sia mangiare a tagli, sono per il valore di vita. Ci sentiamo Marco, stavi bene, ciao Luca, cerco di darmi a miei ascolti, avanti, dopo, che ci sia. Sì, sì, sì, dai, che devo andare a fare la puntola alla vecchia. a domani se coincide, la cosa è bella e tutte cose, dai. Ciao Gianni, ciao Marco, che a domani. Ripeti tu Marco. Ciao Gianni, adesso anch'io guardo che così sono in fase calante, tipico del dopo mangiato. Ah, io lui, anch'io dico, quando parlo di mamma dico la vecchia, no? Se mi sente mi taglia i fondi, capito? Mi taglia i fondi. Sì, a me me l'ha già tagliati, gatta. Ciao, cambio! Se fare quella specie di quel gaba gaba col punto finale. Attenzione il binario, dici se tu ascolti questa piccola chiamata cambio cambio cambio. Su YouTube ho sentito di peggio Luca. Su YouTube uno ha preso solo praticamente quella specie di rutto finale che fanno alcuni camionisti, ma è un rutto vero quello, è una cosa allucinante. Ha fatto un mix di rutti finali, dai, non sono rutti ma sono rutti alla fine. Chi c'è? Gianfranco è rientrato. Questo qua è... Qui l'ho trovato, guarda, antico rottificio, canale 45, a Isetta, Praticamente un porcaio. Così è. Per carità. Andava, là. Sentiamo domani Marco, la cosa è bella, la cosa non è tribula, gatto gatto. Modulazione canina, non agi compresi com'è la modulazione canina, non trovo più il pezzo, te l'avrei fatto sentire, è una cosa, vabbè dai, comunque è una particolarità dai del modo di modulare. Vabbè Lu, qua la biocco, c'ho gli occhi a mezz'asta, mi deve essere il vino più che la biocco, dai sentiamo le migliori occasioni, ok? Buona serata, buon tutto. Ma sono voce. Che succede? Oh, mi senti adesso? Prova, prova. Sì, ti sento. Però il bip non è pulito, vero? Il bip è pulito, è breve il bip, fammelo sentire. Cambio! Cambio! Ehi, è breve, breve. Di quelli da 100 millisecondi. Tipico, no? Ciao Marco, domani. Ciao, cambia. Ehi, ciao Lu, buona serata, buon tutto. Adesso vedo cosa c'è in TV. Ok, dai, ciao a tutti, ciao all'ascoltori, ciao. Capaccia.